fisicamente normale, c'ha solo un attacco per lo spinotto a jack, poi c'ha on off e praticamente mette le tacche da uno a sì. C'ha le tacche e praticamente quando lo metti in fondo scala, come si dice, satura. Come mai? Quando lo metti in fondo scala, quando lo metti a maretta, vuol dire che c'è molto ingresso, no? C'è satura. No, gli ho dato anche un watt di ingresso. C'è satura lo stesso, con che alimentatore stai pilotando? Con un coso, 30 ampere della coso, come si chiama, sui cinque. Ma ne assorbe 15 e niente. Non si sa l'ultima saturazione. Ma è magari che c'è più pulsante che si avvicina. No, c'è solo on off e poi diciamo le tacche da uno a sì. E poi basta, non c'è manco l'amplificatore dell'antenna. E simile a quello della Lemmelo in lineare, se c'ha il busto di attacchi a sé, se c'ha il tantino on off, basta. AM6CP è buono, basta. Esatto. E c'è anche il conto sulla lineare. La Lemmelo riprende lo stesso. Cosa? Non si è uscito lì. E adesso sono uscito, ho detto che poi prima di andare a fusare con i lineari. Ma sono a mosso. Sì, c'è la mosso, c'è la transistor. Fusano ha detto che avete solo l'antenna della LEM e basta, ne abbiamo chiesto lui l'altro giorno. Vedi a che cosa? I lineari, c'è il catalogo della LEM? Ma io gliel'ha chiesto l'amico che gli serviva e gli ha detto no, io prendo solo antenne della LEM, non abbiamo mai trattato altri prodotti. Il prodotto lineare 250-200 watt. Allora, questo è LEM, ci sono tre tastini bianchi, in pratica, e poi c'è quello a fare a 6, che vedo tu. Ce n'è uno che è la strada, 24-28 volt. Figurati. Ah, è a 24, non è a 12. Aspetta, sto cercando 12. C'è la 12. Apprezzatoriale, codice L35B, da 3 a 30 MHz, 12-14 volt, potenza d'ingresso AM-SSP da 1 a 7 watt. Uscita 400. 400 da M? Sì. Da 120... Aspetta. M, 6200 watt, sto sbagliando io. Io ho l'impressione che voglia lineare. Poi c'è un altro modello, questo è più grosso, 12-14, AM da 1 a 10 watt, di là l'uscita da 40 a 300 watt. Questo è il codice L500. Sono precisi. Cavolo. Stavo pensando che cos'è l'altra cosa che si può fare, allinearla e basta. Deve allinearlo, sì, lo dico. Tanto se ce l'hai l'apparato uguale. Cos'è il problema? Non c'è problema per quello allineato, basta dargli il minimo di watt e poi la maletta dai presto. Sì, già provato, non fa, satura lo stesso. Perché a me mi saturava, perché ricordi il piccolo 50 con Saturnecco, la stessa cosa. Allineato così? Non è allineato, che vuole a contatto di stazionario. Ci sarà qualche trimmer, perché se lo fate a cambiare le resistenze interne, una fila dall'altra si mette nuovo e se più grosso è così diminuisce la saturazione. Cavagallo. Comunque, se non c'è tutto, va bene. Se no, a 120, come li dai 170, 170 e più i sacchi. Va bene, 560, va così. E devi fare l'allineamento, devi fare, per forza. Questo apparato qua. Cioè se tu lo fai sul tuo... Se non cambia l'uno, è un mio tuo, non è che cambia l'uno. Vaga, qui è la trova, è una linea. Guarda se con l'aggeggio si è lanciato. No, no, non ce l'ho agganciato. No, l'ho tolto. Ah, ok. Tolto perché ti dicevo, ti sta mangiando la radio, questo, quell'altro, l'ha preso tutto. Tocca freddo, tocca freddo. Avanti, Antonio. Tu chiuso hai? Con 5 watt, diciamo, vai con lui, vai nessun problema. Io aumenterò la radio anche di segnale, io mi sto attenuando qua, perché mi arrivi il fuoco, perché ha da qui. Però io me ne accorgo perché cambia la radio, ed è più forte, e va bene. Ehi, agua. Hola, io sono con 5 watt, ma sta andando 5 watt. Ti presenti lì, ti arrangiano loro, tu gli prendi la documentazione e la roba saranno loro, ti chiedono dall'ufficio di collocamento il reddito, cioè il reddito della, del coso, certificato di reddito, e poi ti chiedono il certificato di come sei iscritto all'ufficio di collocamento. Lo so, lì, perché ho fatto tutto quanto al caffè dalla prima volta. Lo so, io potrei presentare anche l'operazione che ha avuto adesso, tutto quanto, ma si dà mille di luci, stai a perdere il tempo, tanto ti chiama però, te ne danno, mi sa. Già, quando mi opero anche a Lucchio, già vi faccio il ricorso, la rifaccio con l'aggravamento. Sì, va bene, come vi va a fare adesso, poi facevi l'aggravamento, presentavi il foglio con l'aggravamento e ci aggiungevi quell'altra cosa. Parla, futtitini, non ti costa niente. Io di un sicuro, capito? È tutta cosa in più che c'hai mi quando ne vai in pensione. Hai capito? In pratica c'è indennità di lavoro, quindi ti danno punteggio, fallo, futtitini, poi presenta quello che hai detto, devi presentare. E molto meglio, tutti zitti. Avanti. Se ho capito bene, è una domanda di pensione, vero? Diciamo di sì. Sono un casino, però ci stanno che stai lavorando. Sono che lo puoi fare, ti raccomando, vai. Ma non è una domanda di pensione, questa qui è una cosa in più che ti devono dare perché per i deficit che hai. Così è. E certo. No, la palese che fa di aria di tutti i gatti. Fatemi lottare. Vabbè, ma non mi interessa, adesso lo farò dopo. Perché loro dicono che praticamente le malattie che ti devono lasciare l'invalidità permanente sul lavoro, eccetera, eccetera. Vabbè, dai, non so cosa parlare qua, come pagare verticale. Già, ma vabbè, ne parleremo così in verticale, dai, sono problemi. Magari. Quello che bisogna fare, no, già, perché se non lo fai, se vai in pensione, dici, beh, domani cosa è stato? Se ci pensi... Se vado indietro, capito, a rifarlo. Quindi fallo, sono sempre i punteggi che c'è in più. Adesso sei tranquillo. Cosa ne sai, tra 10-15 anni le cose cambiano? Andrà al manco, vai di sicuro. A futtitini, fallo, che è meglio. Non lasciare perdere come facevo io. Siamo proprio per dire che andiamo dalla moto. E intanto mi sono diventato cosa me ne frega. Ho lasciato perdere, se avete lasciato il comune mi sarei fatto i soldi. Adesso ogni cosa lasciate a casa, quindi faccio tutto quello che devo fare, ma non fate nulla. Infatti. Vabbè, io vi saluto, me ne vado tutto contento. Ciao Antonio, ciao Alessio, mi auguro buonanotte. Buona giornata per domani. Ciao Alessio. Ciao, dai, ce la risentiamo pure io adesso. Guarda un po' il televisore, ma c'è un po'. No Gianni, ciao Antonio, io sentire lo stesso anch'io. Buonanotte, a domani. Ciao. Ciao.